possiamo essere a favore, perché tutto il processo di privatizzazione è iniziato con la Giunta Vitale, su cui si è provato a fare anche opposizione. Una città, c'è stata la mobilitazione a suo tempo contro questo processo di privatizzazione, che era una dimostrazione di come quello che oggi è il PD, allora era il PC, poi il DS, eccetera, erano, come dire, gli alfieri dei processi di privatizzazione delle aziende pubbliche. Le farmacie comunali di Bologna erano uno dei fiori all'occhiello di questa città, e già allora io insieme a tanti altri compagni facemmo di tutto rispetto a questo processo. Oggi si arriva, come si dice, con questa ultima decisione del Comune di Bologna a mettere la parola fine a quell'ultimo pezzo che il Comune di Bologna si era tenuto. Ovviamente nel nostro giudizio è negativo, però ecco, da quello che capiamo, il ritardo di questo processo di privatizzazione, tra l'altro, ci dimostra appunto che tipo di politiche si sta attuando nel nostro territorio. Il fatto che ci si arrivi oggi soltanto alla dismissione dell'ultima parte, diciamo, delle quote comunali, è dovuto al fatto che finora la partecipazione del Comune di Bologna all'interno della società che gestisce appunto le farmacie comunali garantiva alla multinazionale che attualmente gestisce le farmacie di Bologna, gli garantiva il fatto di poter avere quel numero di farmacie sul territorio bolognese. Quindi la parte residuale del capitale pubblico era funzionale totalmente ai profitti e al monopolio di questa multinazionale. Le ragioni della privatizzazione e anche del completamento, insomma, di questo iter oggi sembrano non esserci dal punto di vista economico, perché la società AFM ha un utile netto di 3,5 milioni di euro e ogni anno stacca un dividendo per il comune di circa 300.000 euro, quindi insomma il comune ci guadagna. Dovendo ragionare come ragionano loro rispetto al rendimento, diciamo, economico, cioè le logiche, diciamo, di mercato, questa operazione ovviamente è un'operazione di vendita dei gioielli di famiglia, no? Cioè nel senso che io prendo quello che prendo vendendo le azioni e rinuncio, diciamo, a quello come chiamano loro, un asset strategico che anche a livello economico consente un'entrata, diciamo, alle casse comunali. Ma io farei questo ragionamento rispetto alla contrarietà dei processi di privatizzazione anche se fosse in perdita, perché stiamo parlando comunque di una funzione pubblica, quella della sanità, delle farmacie, che dovrebbe essere, a prescindere dal fatto che è assurdo anche a livello economico, dovrebbe essere tutelata. Può essere un ragionamento in più, alcuni lo fanno, nel senso, questo è una società che non solo va bene, ma va benissimo, il comune ci guadagna come socio, tra l'altro con meno del 15% esprime un quinto dei consiglieri di amministrazione, perché appunto ci sono dei patti parasociali. Ci sarebbero tante ragioni, sottoragioni e argomenti per dire che questa è una scelta sbagliata. È sbagliata a prescindere, perché le farmacie comunali erano un'esperienza importante per questa città, hanno garantito molto in questi decenni, poteva rimanere pubblico come potevano rimanere pubblici tantissimi che sono stati dismessi da questa amministrazione, dalle passate amministrazioni. E come sindacato ci battiamo geneticamente con i processi di privatizzazione che non hanno una ragione, diciamo, economica, hanno una ragione politica, cioè spostare profitti, risorse, competenze, sette di interesse pubblico in mano ai privati. Quindi nel momento in cui la normativa è cambiata e quindi la multinazionale non ha più bisogno del socio pubblico per avere questo monopolio sul territorio delle farmacie, allora a questo punto c'è il ben servito. Eppure nel merito sarebbe importante che il pubblico mantenesse un servizio farmaceutico, specie in un'epoca in cui le persone stanno sempre più avendo fatica ad avere accesso anche ai farmaci. C'è uno dei ragionamenti soldi che si fanno per sostenere i processi di privatizzazione è che il pubblico non ha più interesse a svolgere determinate funzioni, perché ormai i tempi sono cambiati. Purtroppo i tempi stanno cambiando, sì, ma stiamo tornando indietro. Le farmacie comunali sono nate in una situazione in cui bisognava garantire l'accesso ai farmaci e più complessivamente, diciamo, alla salute ad ampie fasce popolari, perché appunto questa cosa qua non era garantita e c'erano dei livelli appunto di sofferenza rispetto all'accesso a questo tipo di diritto. Oggi stiamo arrivando e siamo già avanti, c'è veramente una fetta crescente della popolazione italiana e anche bolognese, soprattutto anziana, di nuovi poveri, che rinuncia alle cure, rinuncia a comprare i farmaci, e quindi c'è anche un calo della spesa farmaceutica capita in certi settori, perché proprio c'è una crisi sociale che si ripercuote in termini di pensioni, in termini di salari, in termini di sottoccupazione, di sottosalario e tutto quello che possiamo sapere, che tra l'altro appunto si sposta appunto nelle impossibilità di poter accedere e di mettere, come si dice, nel proprio carrello delle spese mensili quei farmaci che sono spesso necessari. Una funzione pubblica delle farmacie sarebbe importante per controllare, per contrastare, e a questo mettiamoci dentro la questione della qualità, della professionalità, dei diritti dei lavoratori, che sono appunto in ogni passaggio di questo genere sono messi in discussione. Ci sono state delle mobilitazioni anche nelle settimane scorse da parte dei lavoratori delle farmacie, e c'è un problema nazionale nel settore. È chiaro che questa operazione va contro una politica sociale rivolta ai cittadini, rivolta agli operatori del settore, che significa qualità del servizio, che significa che la farmacia non è un supermercato dei farmaci, ma è un luogo, è un presidio per la salute, e dove si possono svolgere iniziative di prevenzione, di formazione, di educazione ai farmaci, educazione alla salute. Tutta questa funzione di presidio delle farmacie invece è relegata alla mera commercializzazione.